rimanere soli, fa scorrere i pensieri e sudano le mani. Forse è meglio non pensare a niente, non devono gli ieri sconvolgere il domani. Un momento è solo un'altra volta, se è andato poi non torna più. Al tramonto poi ancora un'alba seguirà. Per non rimanere soli non bastano i pensieri, ci vuole un po' di più. Cercare adesso la memoria, per mano in una via, l'inizio di una storia. Poi un bacio cercandola negli occhi, un sorriso e poi guardare su. Una luce bagliore di una stella seguirai. E l'amore come poesia scoppia dentro questa melodia. E l'emozione, momento di magia, sensazioni dentro di te. Na na na na na na na na na na. Siamo mai da soli, tutto ciò che è stato rimane insieme a noi. Cerca ancora e trova la memoria, sembra stato ieri, ti servirà domani. Un momento anche questa volta per capire e poi tirarti su. Nel tramonto cerca ancora l'alba che sarà. Se l'amore come una poesia scoppia dentro come melodia, una lacrima come per magia, emozioni dentro di te, di te. Na, na, na, na.